22 ottobre del 2025 inizia prove tecniche di trasmissione. E lo facciamo qui su Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info, il riferimento web anche per sentirci via internet. Sul sito stesso naturalmente troverete anche le modalità per aderire alla sottoscrizione per questa radio, che è sempre una necessità impellente, giacché ormai dal 1977 è una realtà completamente autogestita. Non so se alle 22:30 ci sarà 25 o'clock, ancora non lo vedo, ma è più no che sì. Vi dirò in seguito. Intanto vado a salutare i numerosi ascoltatori già connessi. Ernesto Brusati da Varese, Doriana Panica a Taranto, Anna qui a Roma, Maya che ci sta ascoltando dall'Umbria, Cortina D'Ampezzo con Tabula Rasa, Chris Florido del Canto di Vesta, Eresia Rex, un grosso abbraccio a lui, Marco Magia di Progetto Sonoro, peraltro molto attivo dal punto di vista artistico, ha di nuovo stampato delle nuove tracce che vi invito ad andarvi a sentire sulla sua pagina Bandcamp o SoundCloud. Vado a salutare Nicola Locci di Stigmate ed Hexagonal, lui ci sta ascoltando dalla Sardegna. Saluto uno dei riferimenti della musica sperimentale in Italia, Like Wake, Stefano Di Serio. Saluto Flavio Derbecanta, Arianna Digni Lombardo di Noise Cluster. Saluto Massimo Santoro in quel di Torino. Come al solito avrete notato quel minimo di confusione che regna nelle chat quando andiamo in onda, ma cercheremo di seguire tutti i commenti. Ho salutato Eresia Rex proprio dalle Eretiche Elettriche Divisioni, che è una sua label. Andiamo ad iniziare questa sera approfittando di una provvidenziale ristampa di un vecchio lavoro di Gerstein di Maurizio Pustinaz dal nome Sucker, un album che uscì circa 30 anni fa con la vecchia Misty Cycles, che in maniera opportuna ma anche inaspettata, aggiungo io, è stato riproposto appunto da questa realtà italiana. È una versione estesa e rimasterizzata dove potrete apprezzare il pianismo notturno, lo spleen e l'intensità di questo artista. Questo album si apre con l'omonima Sucker, poi ci sarà My Colors e Take the Hold. We'll be right back.

Abbiamo aperto con l'umore trasognante che sprigiona questo Sucker di Garstein di Maurizio Pustianaz, che vado a salutare. Saluto anche appunto Eresia Rex. E se si vuole acquistare questo lavoro, bisogna contattare proprio questi due personaggi testé nominati. Bene, belle queste brume notturne create da questo magico pianoforte. L'attento Ernesto Brusati, che vado a risalutare, e sono contento che sia ritornato ad ascoltarci, puntualmente nominava Le Masche, un fenomeno degli anni Ottanta, così crepuscolare anche in questi usi pianistici, ma anche Tuxedo Moon ed altri. In qualche modo mi sono tornati alla mente, senza nulla togliere ovviamente l'autonomia creativa di questo interessante progetto, di questo disco ristampato dopo tanti anni. L'ho mandato infatti anch'io moltissimo tempo fa nella prima versione, ma è bello risentircelo anche così esteso e rimasterizzato. Grazie all'iniziativa delle Eretiche Elettriche Divisioni, del quale profilo Bandcamp vi consiglio di andare a visitare. Saluto anche Ernesto Dark Phoenix Galli e Giuliano DJ Banshee, agitatori culturali e musicali qui di Roma. Noi andiamo avanti, andiamo ad atterrare nelle dimensioni della Nespresso Sounds Group, questa volta in combutta insieme alla Dissipazio di Nicola Quiriconi. E questo a causa dei Subdivisions, questo lavoro dei 400 Lonely Things che già ci siamo ascoltati nelle settimane scorse. E continuiamo questo viaggio in questo album dagli umori ambient, IDM, a loro modo anche psichedelici. Una delle tracce più lunghe è sicuramente questa, la Intravenus. strategie sonore ideate da questo progetto. Questo progetto americano, sia 400 Lolly Things, evocano un immaginario molto affine all'ambient, all'EDM, all'esperienza della Warp, etichetta strafamosa degli anni 80-90 e non solo, di Aphex Twin. In questa circostanza, Borzo Canada, che ritengo sia un riferimento importante per loro, anzi per Luigi, che è una one man band. Craig Varian. Il sempre puntuale e sagace Brusati ci dice: fa molto colonna sonora di un mondo prossimo alla catastrofe, due punti, deserti, resti, pochi superstiti, capelli che lo squallore ha reso brizzolati, lunghe, lunghissime camminate. Questo è ciò che ha evocato nella immaginazione di Ernesto Brusati. Si può anche sposare questa definizione, è un'ottima, diciamo, considerazione di Ernesto. Invece Ernesto Dark Forest Galley, avendo anche un retroterra molto più gothic rispetto ad altri, magari ricorda per esempio certi passaggi dei Deccan Dance addirittura. Ma è bello disquisire, molto interessante disquisire a questi livelli con persone competenti, attente, appassionate come loro e tutti quelli all'ascolto di prove tecniche di trasmissione. Andiamo avanti, Ernesto lo vado a ringraziare anche perché mi ha reso edotto del disco degli Scivias, lui e Giuliana. And You Will Fear That Not fu un album, l'unico album, anzi il primo dei due album che uscì nel lontano ormai 2001, che coniugava efficacemente modern classical, come si suol dire, industrial, tratti sperimentali, neofolk, ma anche passaggi di post rock. Quindi una mistura efficacissima e, aggiungo io, anche un immaginario legato alla cultura religiosa giapponese che permea questo lavoro, compresa la copertina. Ci ascoltiamo A Tower of the Devil e Passion. Egy nap az ördög serege ismét betört a szigetre. Torony építéséhez fogott, harcosból robotot faragott. princseppét teszed a porszemet, majd porszemmé a princseppet. Fájdalmam a tiéd. Ismerem a farizeusokat, kik fogalmak közé kényszerítenek. Látom a vak tömegeket, Krisztusnak vélik-e megfeszített testet. Nem ismerik a szenvedéssel egyidejű érinthetetlenséget. Dall'Ungheria questa vecchia release degli ungheresi Scivias, appunto. Scivias che ci hanno deliziati ancora una volta con And You Will Fear Death Not, questo vecchio lavoro del 2001 attraverso la Eis und Licht, che fu in quegli anni un'interessante realtà soprattutto nel campo del neofolk. Saluto e ringrazio per le belle parole Miriam Piera Genovese, che credo stia in Molise. Jean-Claude Bertot e Davide Mastrullo di Cangolore. szél. Sentite che atmosfere anche flautistiche, così quasi anni 70, quasi Jethro Tull, fatemi dire questa bestemmia. Ma comunque quello che è importante è che fu un ottimo lavoro in quegli anni, e appunto vado a ringraziare di nuovo Ernesto e Giuliana per avermelo reperito. Andiamo avanti. Anche questa sera andiamo un po' ad operare una scappatina nell'universo Swans, approfittando di questa ultimissima uscita molto molto interessante che porta il nome di Birthing. Ormai ci hanno abituato a queste lunghissime tracce di psichedelia rumorista, che è una caratteristica portante della loro seconda fase artistica. La prima, come molti sapranno, era più improntata sul noise vero e proprio. La parte migliore di New York, aggiungo io, insieme ai Sonic Youth, quest'ultimi purtroppo non più esistenti, ma che comunque continuano attraverso i vari componenti, attraverso i loro progetti autonomi. Poco sciarra più bello. Ci andiamo ad ascoltare questa sera la seconda parte della lunga Birthing, la traccia omonima. Első és utolsó bevetésen ez. Unspoken. Eccellente finale di questa Birthing, che andava anche a chiudere il primo CD di questo album omonimo uscito nel 2025 per gli Swans di Michael Gira. Tanti anni di militanza, ma cedimenti praticamente zero. Magari hanno avuto delle fasi più intimiste, forse più acustiche. Ma anche questo nuovo ritorno degli ultimi 20 anni ha della dignità e della efficacia artistica non indifferente. E intanto si sono fatte già le 21:55 qui da Radio Onda Rossa, con prove tecniche di trasmissione sino alle 22:30 circa. Al pari di Disorder, anche prove tecniche di trasmissione, si va ad occupare della storia della Final Music, etichetta di Gianfranco Santoro, che ha stampato in passato album sia di ispirazione sperimentale, ma anche di synth pop, di EBM. Insomma, un catalogo molto variegato. E questa sera ci andiamo a conoscere un ultra sotterraneo progetto tedesco dal nome Mortification to the Flesh. Uno dei primi lavori di questa etichetta, e l'album in questione si chiama Le Tresoro Maudit. Album che uscì inizialmente nel 1988 e che è stato ristampato molti anni dopo, appunto in digitale. Ci ascoltiamo Germanica e Memento.